Eccoci in collegamento con lo storico Alessandro Portelli per parlare della prossima iniziativa del Circolo Bosio. Intanto Alessandro, ben ritrovato su queste frequenze. Ben ritrovati a voi, grazie. Allora, intanto per chi ci ascolta, anche per i più giovani, spieghiamo cos'è il Circolo Bosio. Ma il Circolo Bosio è una realtà di movimento romana che esiste in varie forme ormai da quasi mezzo secolo, dall'inizio degli anni 70, dal 71, e si è occupata a lungo di canzone popolare, di musica popolare, di canzone politica e di storia e memoria del mondo popolare, della classe operaia, dei movimenti. E in questo momento appunto stiamo lavorando molto anche sulla musica dei migranti, che per noi sono appunto un elemento importante anche nella battaglia culturale sull'identità e sul razzismo. Oh, Alessandro, ecco, raccontaci l'iniziativa che ha preso il Circolo per un suo calendario tutto particolare. Sì, dunque il progetto si chiama Calendario Civile e l'idea è che fin dalle origini dei movimenti popolari, dei movimenti democratici, c'è stata la necessità di segnare dei momenti anche di memoria condivisa e di ritualità per ribadire e rilanciare i valori e i principi dei movimenti stessi. Quindi accanto al calendario liturgico, no? Alle feste, Natale, Pasqua, eccetera, eccetera, c'è stato un calendario laico segnava date come per esempio quella proprio di domani, del 20 settembre, ma anche naturalmente il 1° maggio, l'8 marzo e poi anche altre date che i movimenti più recenti hanno recuperato. Nel nostro calendario civile fa parte naturalmente Genova, come ne fa parte il 12 dicembre con la memoria di Piazza Fontana. Quindi diciamo, abbiamo pensato di ricostruire questo calendario alternativo civile come un po' uno dei momenti, una serie di momenti dove ripensiamo e rilanciamo il significato di questi momenti storici che sono ancora rilevanti per noi. In questo momento, per esempio, Porta Pia significa ricordarci della laicità dello Stato, tanto per dirne una, e anche dei principi importanti di uguaglianza e di diritti che erano sanciti nella Costituzione della Repubblica Romana. Questo progetto ha due aspetti: uno è un libro che è uscito con l'editore Donzelli, che insomma circola e abbiamo presentato in varie occasioni, e l'altro è un ciclo di spettacoli legati appunto a queste date. Questo ciclo si svolge al Teatro Vascello, che è uno dei bei teatri di Roma, e abbiamo cominciato quest'anno con uno spettacolo sull'8 settembre con Ulderico Pesce e Andrea Satta. Faremo il 3 ottobre un'iniziativa sull'anniversario di Lampedusa, quindi sulla presenza dei migranti, con il Teatro delle Albe e così via. Lo spettacolo di domani è un concerto con letture del gruppo che si chiama L'Albero della Libertà, che nasce all'interno del Circolo Gianni Bosio. È l'asse portante di questo gruppo è Sara Modigliani, che è la più bella voce della musica popolare italiana, e con lei c'è Stefano Poggelli, che è un polistrumentista assolutamente straordinario, e questo prodigioso cantastorie siciliano Mauro Geraci, che è veramente una scoperta straordinaria per chiunque non l'abbia sentito prima. E lo spettacolo segna un po' i momenti cruciali della storia del movimento repubblicano per l'indipendenza nazionale, e inteso anche però come un movimento in cui non era tanto il nazionalismo quanto i valori di libertà e di uguaglianza che venivano sottolineati. Quindi c'è moltissima musica, ci sono delle letture anche divertenti, anche inedite, è uno spettacolo che ho visto in preparazione, che a me pare molto molto molto bello. Senti Alessandro, oltre alla data che hai già ricordato dell'8 settembre con Ulderico Pesce e Andrea Satta e allo spettacolo di domani mercoledì 20 settembre, c'è un quante sono le altre date con spettacoli di questo calendario civile? Beh, abbiamo appunto il 3 ottobre con il Teatro delle Albe che fa gli Argonauti, sì. Poi non esattamente il 4 novembre, qualche giorno dopo, il 7, ci sarà uno spettacolo ancora dell'Albero della Libertà intitolato Maledetti studenti italiani che la guerra l'avete voluta, sulla prima guerra mondiale. Poi faremo in occasione a dicembre, primi dicembre, in occasione dell'anniversario della strage della ThyssenKrupp a Torino, uno spettacolo che si chiama Le vite operaie contano, ci saranno appunto, sarà soprattutto un concerto, ma un concerto con letture, tra l'altro ci sarà questo gruppo fantastico delle Mondine di Porporana che continuano una grande tradizione del canto popolare. Attorno alla giornata della memoria faremo una cosa con Monio Vadia sul genocidio del Ruanda. Stiamo ancora cercando di verificare, di confermare uno spettacolo con Ascanio Celestini sulla Repubblica Romana a febbraio, poi faremo ovviamente dei concerti l'8 marzo, il giorno delle arti latine con Giovanna Marini e così via. Tutto comunque, tutto il programma è sul sito internet del Circolo Gianni Bosio. Noi abbiamo sia sul sito del Circolo Gianni Bosio, sia su quello del Teatro Vascello, sia poi abbiamo una pagina dedicata, pagina Facebook dedicata che si chiama Calendario Civile, dove appunto si seguono un po' gli eventi legati a questo progetto. Alessandro, io ti ringrazio. A questo punto ci diamo appuntamento per le prossime scadenze. Ti ringrazio moltissimo, spero di vedervi, di vedere te e altri compagni ascoltatori al teatro. Benissimo. Domani e la prossima volta. Un abbraccio, a presto. Grazie, ciao.